Vacanza di Lago. Capitolo VII. Martin rimase per un po' sotto lo sfarzo opprimente di quei soffitti alti e la confusione degli accordi e delle esercitazioni che sciamavano e si accanivano a grappoli dalle classi vicine. Si guardava intorno, un po' spaventata e pervasa da quella strana ansia che continuava ad incalzarle dentro. Leggeva adesso i nomi dei maestri sulle porte di ogni classe. Erano tutti grandissimi artisti internazionali, a lei sconosciuti, molti nomi indecifrabili e di difficile pronuncia. Martina si avvicinava con lentezza ad ogni porta, mentre il suono arrivava poco prima del nome dell'insegnante, a darle poi quel tocco di rapimento immaginario, oltre quegli usci ancora proibiti e blindati. Si sentiva sempre più impacciata e fuori luogo ad ogni fioritura di accordi, di strappate e di fiumi di temi bellissimi, mai ascoltati, che adesso crepavano le aule di meraviglie troppo grandi, per i suoi occhi già stanchissimi, a quell'ascolto. Il suono negli occhi, lo tengo tutto lì dentro, è bellissimo e pericoloso insieme. Forse è proprio vero che sto impazzendo, ma sarebbe bello morire così e poi ricordare tutto quello che ho perso fino adesso e che non otterrò mai più. E poi quanta musica che c'è qui, potrebbe accecarmi, avrei voglia di toccarmi e di perdermi proprio adesso, forse di più, e non ritrovarmi mai più. Martin vide gli altri ragazzi incollati agli strumenti e lei invece disadorna, svuotata, con la chiazza della mentolina sul collo quasi invisibile, quanto una scia rosata di nube prima di un tramonto. Oltre le porte del primo atrio una scia stretta di altre classi si avvicinò, indugiando, e sulla prima porta di quella nuova fila ecco apparire limpido, sul legno bruno della porta, il nome che cercava. Maestro Flashing. Rimase bloccata, senza riuscire ancora a distinguere quali particolari suoni provenissero proprio da quell'aula. Accostò l'orecchio e percepì un suono bellissimo, come di seta rara e pregiata, che forse in vita sua non aveva mai ascoltato, così puro e così ben disteso. Poi avvertì interromperlo, nel bel mezzo del suo scorrere, da una voce chiara e decisa che correggeva, che spiegava con calma e compassione gli antichi segreti di quel passaggio, che lei sembrava già perfetto così com'era e che invece andava ancora migliorato, perfezionato, spiritualizzato oltre tutti i suoi limiti e confini possibili. Il mistero di quei suoni e di quelle voci avvicinava ancora di più con la pressione dell'orecchio freddo a quel legno massiccio e rassicurante. Quella che adesso le arrivava sembrava essere la voce più adulta del maestro, incisiva e chiara nell'eco soffuso e riverberante dell'aula. La legatura, dunque, sulla legatura ci sarebbe ancora da parlare parecchio. Potremmo parlarne per tutto il corso sulla legatura, ma purtroppo il tempo non c'è. Sei d'accordo allora con questa soluzione? Qualcuno arrivò alle sue spalle ed esitò, trovandolo a lugliare fuori alla classe di Flashing. Guarda che l'accesso è libero, se ti va puoi anche entrare. Martina ebbe come un sussulto, si girò, mortificata, impaurita. No, è soltanto che io volevo capire se... Nessun problema, Edoardo Fonseil, sono uno degli allievi della classe. Molto piacere, Martin Menier. Violinista, immagino. La porta poi si aprì all'improvviso. Una ragazza giapponese uscì fuori, imbracciando il suo violino. Poi salutò Edoardo, con un sorriso pieno sul viso così piccolo. Allora io entro, tu cosa fai? Flashing osservava dall'interno dell'aula, poi li invitò a farsi avanti. Prego, prego, entrate pure ragazzi, senza paura. Buongiorno, professor Flashing. Che dolce signorina. Credo di non averla mai vista da queste parti, prima d'ora. O forse mi sbaglio. In effetti, è che sono qui per la prima volta. Edoardo intanto chiuse la porta e andò a sedersi. Allora, lei dovrebbe essersi iscritta come uditrice, o immagino? Sarei venuta qui soltanto per parlarle. Da davvero? dando così poco credito all'importanza delle parole, soltanto per parlarmi? Sarei venuta qui con un amico, Pierre Dossier, non so se lo ricorda. Mi ha convinto lui a venirla a cercare. Ah, straordinario quel ragazzo. Allora è la benvenuta, ma mi creda, lo sarebbe stato comunque. Facciamo così. Allora, adesso io ascolterò questo ragazzo. Lei, se ha piacere, potrà ascoltare tranquillamente la mia lezione. Poi mi prenderò una piccola pausa e potrò ascoltare le sue parole. Che cosa le dice? Tu, Sergio, sei pronto? Un ragazzino magro e lentiginoso si fece avanti con timidezza. Martino intanto andò a sedersi vicino a Edoardo, che intanto aveva acceso un piccolo registratore e preparava un blocchetto di appunti sulle ginocchia. Martino aveva una grandissima voglia di parlare, ma era condannata al silenzio della lezione, che calava nella grande aula con una liturgia antica, solenne, a cui dover sottostare per un'antica e immutata ortodossia. Il piccolo Serge cominciò a suonare con grande e spigliata disinvoltura. Martino lo ascoltava rapita, mentre si rivedeva nei suoi balbetti inconsistenti e diventando ancora più piccolo e più inutile, proprio come l'aveva detto Pierre l'altro pomeriggio. Chiuse gli occhi. Mentre il violino intagliava l'aria, i suoi pensieri ancora trafitti da quella tristezza lontana e struggente, ancora più sconosciuta, indecifrabile. Ascoltava ancora Martin, in quell'ascolto così teso, così violento, camminava già lungo il sentiero, in discesa, verso la villa. Aveva ancora la musica tutta negli occhi, che premeva e che la spaventava, mentre la faceva allontanare ancora, come tutte le altre volte, ancora di più. Una tendina scostata, quel volto buio e cupo che la osservava da fuori, prima della pioggia. Le sembrava di essere a piedi, rallentava e si accostava all'ingresso, quella mano piccola e lontana dalla nebbia di un vetro appannato che la salutava, con un gesto profondo di nostalgia e poi tirandosi lentamente dentro fino a svanire, quando le note si facevano poco più acute e il tempo in musica oscurava il manto muto e opaco dei cieli più autunnali. La pioggia cominciava a infittirsi e si appesantiva di un primo strato di nevischio. Martin si alzava il cappuccio dell'impermeabile difettoso per non bagnarsi oltre. Quell'impermeabile che avanti non si vedeva mai del tutto e si incagliava sempre a metà cerniera. Si fece avanti e trovò ancora aperto. Prima di entrare si voltò ancora una volta indietro, ma vide gli alberi come zaffiri fluorescenti allargati tra i primi lampi dritti nel cielo, svettanti nel silenzio inimpedito dalla pioggia, che cadeva ancora uguale, senza rallentare, senza aumentare. Con l'arrivo delle doppie corde, Martino aveva ormai trovato il suo passo preciso e disteso nell'aria opaca e austera di quella serata dolce di temporali e nel tempo dilatato di un altro tuono. La porta socchiusa, la luce morente di una piccola candela nel semibuio, quando adesso entrava nell'incertezza di quell'interno freddo, disabitato, e nei tempi esatti di quell'esecuzione così terribilmente ispirata, che prendeva quota con la possenza sfumata di un erone cenerino, allo spegnersi di un giorno di caccia, e dentro il suo stesso oscurarsi, nello stentare anziano e spaventato, dei suoi piccoli passi incerti, sul fogliame. Adesso percepiva rumori come respiri umani, o affanni, morsi, morbidi e affannosi di pettine nei capelli, nel maglio della sua anima spaventata, sul tavolo accanto alla candela un piatto piano coperto da un piatto fondo, occhiali da vista vecchi, fuori moda e pesanti, senza una lente, e nello stesso percorso visivo delle arcate più lisce e leggere che continuavano a setacciare quell'aria fredda e umida di tempesta senza fermarsi mai. In quel momento Martin voleva capire che cosa fare, ma la pioggia non l'avrebbe consentito di ritornare indietro, e quello era l'unico riparo disponibile. La musica ancora si intrecciava alle foglie dei rami, all'odore di una cena conservata nella notte, alla sua grande paura sconosciuta che le solcava le ossa sottili delle gambe, fino ai calcagni, e poi risaliva e le chiudeva la gola. Martin vedeva poco e sentiva solo lunghi sussurri e preghiere slabbrate di salmi lontani che avevano ormai sepolto le note limpide del violino, al suo sguardo grigio e sperduto dentro i portici franati, di quella strana penombra di ascolto. Nel vespro, all'improvviso, una mano che le sfiorò la testa con il palmo squarciato e il pollice posato appena dentro la nuca, a spingere, ad incalzare con la sua pressione quel contatto così improvviso, le bloccò con violenza il respiro. Martina non voleva urlare per non farsi sentire, si sentiva soltanto svenire, svenire nel suo silenzio tombale, profondo come il sonno, ma senza riuscire nemmeno più a voltarsi. I rumori di quelle dita sui capelli aumentavano nella casa, nei tempi della sua paralisi, nella sua testa, dentro i suoi occhi, con una misteriosa dolcezza, accanto a quello spavento così ignoto e diverso da tutti gli altri, che non aveva mai provato prima. Quella stessa mano la costringeva ad avvicinarsi al tavolo, sciogliendole con dolcezza il nastro annodato alla sommità del capo nei capelli spugnati e gonfi di pioggia. Adesso Martina si sentiva morire di nausea, di terrore, quando la prese ancora a leggere le tenebre il nastro dei capelli appena sciolto, adesso ben teso e fermo sulla gola, come una redine, a contenerla e dissuaderla dalla qualsiasi iniziativa di fuga. La cosparse un senso profondo di morte. Dalla stanza accanto quei sussurri continuavano e diventavano come invocazioni corali, suppliche ancora più intense, amplificate dal calore di quel contatto. La candela che si spense. Martina aprì gli occhi, spaventata a morte, e accompagnando quel risveglio ad un movimento brusco del gomito che aveva posato ad un suo ginocchio, ancora instabile, tremante. Nessuno nell'aula sembrava essersi accorto di niente, ma intanto il suo malessere esplodeva, le dava il desiderio impellente di uscire fuori e di sperdersi nei viali del parco, alla ricerca di una tregua. Cominciava a sentirsi ancora più oppressa da quelle immagini ancora così vive e presenti, sia nella sua testa che nei suoni ancora pregnanti e concreti del violino, ma rimase ancora lì, ancora nella stessa paralisi. Martin non voleva interrompere per nessuna ragione al mondo la lezione del piccolo Serge. Quel brano lento, intanto, continuava indisturbato a sciogliersi nei gomitoli della sua chanson triste. Ormai non riusciva più a calcolare da quanto tempo fosse realmente iniziato. La porta finalmente si aprì. Era la segretaria, che chiese a Flash di uscire per una chiamata al telefono. Martina ne approfittò e si scaraventò fuori, raggiungendo il giardino. Rimase sperduta, con gli occhi sbarrati. Adesso Martina sembrava non avere più pensieri, se non quei riverberi vetrosi e oppressivi di quella sua ultima visione, ancora terribilmente vivida, feroce. Intorno a lei strumenti di ogni specie che suonavano, scale sovrapposte a frammenti di concerti, impose sonore, burleschi, acrobatiche, come l'unico continuum informe ma ancora armonico di quella placenta sonora umida e viscida che adesso sembrava volerla quasi proteggere attraverso la luce chiara e rassicurante del giorno. Edoardo la raggiunse di corsa, preoccupato e stranito per quella sua uscita così improvvisa dall'aula. Flashing si scusa, ma dovrebbe risolvere un problema in segreteria. La lezione prenderà tra una decina di minuti. Ma te cosa ti ha preso? Grazie per avermi avvertito, Edoardo. Mi spieghi come mai sei uscita fuori? Sei scappata. Ma perché così all'improvviso? Mi succede spesso, come se a volte soffocassi, non te lo so spiegare. In quel momento ricomparve Pierre, in compagnia di altri due ragazzi. Martino lo osservò camminare sorridente e sicuro, dentro il sole, e lo sentì ancora più vivo e più bello, ma soprattutto rassicurante, più di ogni altra cosa in quel momento così nero. Le andò incontro correndo e lo abbracciò forte. «Ma dove eri finita?» Martino gli rispose, senza fare caso agli altri ragazzi, se lo strinse con la tempia schiacciata con tutta la sua forza sul suo petto magro e le mani incrociate alla sua schiena morbida e stabile. Questa è Martin. Mi vuoi spiegare allora che cosa ti prende? La piccola Martin continuava a stringerselo, sempre più forte, ignara di tutto e di tutti. Edoardo si accese una sigaretta francese mentre li osservava in silenzio, da poco lontano. strinse gli occhi alla prima boccata e trattenne di fumo, nel suo respiro calmo, pensieroso. Pierre rimase bloccato in quella piccola costruzione, che intanto lo faceva sentire un po' eroico di fronte alle facce strane dei suoi due amici corsisti, imbarazzati e stupiti ad attenderlo ancora, per quella strana e tenera invasione che aveva interrotto i loro programmi. Martin si sganciò a fatica, con il battito fermo e posato di Pierre, scandito ancora nella tempia. Non sembrava confortata da rientrare dentro. Osservò Edoardo di fronte a lei, che continuava impassibile a fumare e a guardarli. Edoardo intanto era rimasto impassibile a guardare tutta la scena. Aveva appena finito di fumare e adesso era intento a schiacciare il mozzicone sul terriccio fresco del viale con un mezzo giro di caviglia. Martin lo raggiunse a testa bassa, senza parlare. «Che facciamo allora? Rientriamo?» «No, non me la sento più. Adesso la musica è negli occhi, come tutti i miei ricordi, la mia paura. Adesso non c'è più spazio, capisci?» «Ma come non te la senti?» «Non ti seguo più, Martin, perdonami. Quell'aula ha un odore che mi mette agitazione. Davvero, io non sono così. Guardami negli occhi, forse?» «Non penso che tutto questo che mi stai dicendo dipenda dall'aula, Martin. Comunque adesso rientro. Tu fa un po' come ti pare.» Martin gli voltò le spalle e cominciò a passeggiare nel giardino, oltre il piazzale centrale. Rimase impigliata nei suoi pensieri, che cominciavano a prendere vigore e a librarsi nella sua testa come api regine, immerse nel delirio fertile della loro onnipotenza. Gli allievi effettivi dei corsi con i loro strumenti si alternavano sulle panchine di pietra bianca, presi dalla furia delle esercitazioni individuali. Qualcuno abbandonato all'ombra di un albero o sul muretto più basso del belvedere, ciascuno con il suo suono personale, con i suoi errori, con i suoi miracoli svettanti dentro quelle dita calme e disciplinate alla luce ghiacciata del sole. Martino non sentiva più le mani quando ascoltava un passaggio, soprattutto quelli più belli e precisi. In quel momento, invece di gustarne la bellezza, li viveva come pugnalate dentro le sue stesse grandi limitazioni, che si facevano sempre più chiare e più profonde alle sue percezioni. Ritornò, sbandando lo stesso punto da cui era partita, ubriaca, guardando in continuazione l'orologio e sperando che arrivasse a più presto l'ora di andare. Adesso Martin era dentro il suo fondale più nascosto e limaccioso, a divincolarsi nella morsa di una rete e combattendo a vuoto nel tentativo disperato di risalire in superficie. Dall'ingresso laterale, dove erano situate le aule degli strumenti ad arco, vennero fuori Edoardo e il maestro Freshing. Avevano entrambi una mano aperta sul due lato della fronte per evitare il sole diretto e come per scorgere qualcuno che stessero cercando. Martino, non appena li vide, si girò di scatto, temendo che fossero venuti lì fuori appositamente per cercare lei. Rimase per un po' ferma, rimanendo di spalle, sperando di non essere riconosciuta. Poi una voce. Martino si girò spaventata. Era proprio Freshing in persona, in una camicia bianca e pulita, con le maniche tirate su. «Allora cosa fa? Non vuole più parlarmi adesso?» «Io le chiedo scusa, ma non sono stata bene.» «Questo mi dispiace molto. E adesso mi dica, come si sente?» «Adesso un po' meglio, la ringrazio.» «Per questo motivo è uscita dall'aula?» «È che mi sono sentita oppressa.» E intanto alzò gli occhi verso Edoardo, che era in piedi lì vicino ad ascoltare. «Se vuole, signorina Martin, noi possiamo parlare tranquillamente qui, all'aperto.» «Se lei si sente di più a suo agio.» «Non lo so, non mi sembra il caso. E poi mi sento così mortificata, mi creda, lasciamo perdere.» «Assolutamente. Le parole sono importanti, non il luogo dove le si pronuncia. Non crede?» Il maestro si guardò per un momento con Edoardo, il quale chiese permesso e si allontanò, lasciandoli da soli. I due rimasero vicini, faccia a faccia. «Allora, eccoci finalmente a noi, signorina Martin.» Il sole cominciava gradualmente a spostarsi, lasciandoli quasi in un inizio confortevole di penombra. Il vento adesso le scostava i capelli sulla faccia, disordinandola. Flashing non le mise più alcun suono, ma rimase impaziente e attesa che Martin fosse pronta per parlare. Il violino in questo momento per me è una grande incognita, ecco. O forse lo sarà sempre stato, chi lo sa. Giusto? Sono perfettamente d'accordo con lei, signorina. Il violino è e rimarrà sempre una grandissima incognita. Ma non solo lui, credimi. Anche tu, anche io, anche quest'albero, anche il sole di questo mattino, sono delle meravigliose incognite. E questo non è certo un motivo di cui preoccuparsi. Non è convinta abbastanza, forse? E per me, voglio dire, che è difficile capire che spazio abbia nella mia vita una scelta come questa, che non lo sento più come prima, forse perché non lo capisco ancora a fondo come dovrei, o perché i miei limiti saranno ancora più grandi delle mie qualità, e perché poi non so quanto sia veramente determinante per la mia felicità. A volte non so nemmeno se io abbia gli strumenti giusti per comprendere da solo tutto questo, e allora mi confondo e non so più che cosa fare. La felicità, tesoro mio, la felicità non si comprende, assolutamente no. Non cerchi mai di avventurarsi a comprendere certe cose. È qualcosa di lontano dalle regioni della comprensione, del pensiero. È tutt'altro, credimi. Forse allora, disse Martin, continuando, impacciata, è forse per questo che sono così confusa, perché non sono felice. Da quello che mi dici posso capire che forse non sai se continuare a suonare. È vero? Non so davvero più cosa fare di me. Da un lato mi sembra di buttare via anni di studio, dall'altro di imboccare una strada sbagliata che mi ingabbi e che non mi consenta più di esprimermi per come sono. Lei che cosa farebbe al mio posto? Sbaglierei come sbagliamo un po' tutti. E poi forse dopo aver sbagliato potrei cominciare a trovare qualche piccola soluzione. Ma non certo soltanto parlandone, si intende. Dovrebbe scoprire Martin dentro di sé, dovreste sentire, avvertire soprattutto quanto valga dedicarsi ancora a questo meraviglioso giocattolo. Ma proprio lei mi parla così, un giocattolo? Esatto. Perché quando perdi il senso del gioco in quello che fai, conviene cambiare subito strada, scappare. Il tuo gioco, nel quale puoi trovare uno spazio espressivo incontaminato, quantomeno più sereno degli altri. La mia magia, vuole dire. Certo, la sua magia. È perfetto anche così. Da quello che mi dice Martin, se... È una signorina di quanti anni? Mi perdoni. Ne ho 19. Bene. Se a 19 anni pensa ancora a misurarsi, a valutarsi razionalmente intorno ai significati dello strumento, e al contrario non è presa dalla furia selvatica e cosciente del gioco, dell'azzardo, della sperimentazione, allora vuol dire che il segnale sia inconfondibile, che questa non è la sua strada. Semplice. Ma lo dice anche per la mia età. Lo dico per una serie di tanti piccoli elementi. In fondo questo lavoro, se non è preso fin dall'inizio con il giusto spirito, se non è lui a sceglierti e alle sue condizioni, allora diventa un inferno, capisci, Martin? E quindi diventa impossibile, a tal punto da scappare dall'aula, per quanta angoscia ti porti, il semplice ascoltare una lezione. Ed è in queste condizioni che si deve decidere. Un inferno, perché ti richiede un annientamento di fronte a una purezza estetica e insieme spirituale, che forse potresti non raggiungere mai. Ma per questo ci vuole magia. È un po' più chiaro adesso. Come suona bene questa parola detta da lei? Signorina Martin, deve cercare di riflettere in questi giorni di vacanza su quello che davvero la afferra e le fa dimenticare perché lo fa. Su tutto quello che la inghiotta e la fa sorridere. È lì che deve continuare, non altrove. Ma lei non mi ha nemmeno ascoltato. Come ha fatto? Mi creda, signorina Martin. Qui adesso non si tratta più di capacità, tecnica, di valore. Al contrario, qui è una scelta di spirito. E il suo spirito adesso sta scalciando e lei non può assolutamente ignorarlo. E poi, mi dica un'ultima cosa. Questa storia del violino, come è iniziata? È stata davvero una sua scelta? In verità no. Mia sorella aveva cominciato, poi lo lasciò perdere. Allora i miei genitori rimasero delusi da quella sua rinuncia così improvvisa e avevano pensato di far provare anche a me, con la speranza lontana che, insomma, continuassi, incoraggiati forse anche dal fatto che lo strumento era già in casa. Sa come vanno certe cose. Dunque, da parte sua non c'è mai stato un interesse spiccato, diretto. No, affatto. L'unica cosa era il dispiacere di deluderli. Allora mi conferma quello che l'ho appena detto. Io la ringrazio tantissimo, maestro Freshing. Forse era proprio quello che cercavo. Martin continuava a guardarlo con quella mano piccola e sudata, ancora chiusa, in quel palmo marmoreo di strumentista. Freshing intanto si allontanava, con metodica dolcezza, perso nel suo passo leggero, e lanciandole un ultimo sorriso, prima di svoltare verso il corridoio delle aule di archi.